Ciao. Come ti chiami? Che cosa fai nella vita? Da accendere, per favore. Posso invitarti a ballare? Vieni spesso in questo locale.